Le strade della comunicazione. Il mercato dell'intrattenimento è in netta crescita anche nel nostro paese. Per questo il cinema, la TV e i new media offrono sempre maggiori possibilità professionali in un ambito attraente, creativo e di forte capacità di comunicazione. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Producer. Il produttore esecutivo è il responsabile ultimo della produzione audiovisiva sul fronte artistico ed economico. Segue l'intero processo di realizzazione dall'ideazione in poi per ottenere un risultato in linea con gli obiettivi editoriali. Il produttore esecutivo supervisiona l'avanzamento dei lavori nel rispetto dei vincoli economici e temporali fissati. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in televisione, cinema e new media dell'Università Yulm. www.yulm.it.